Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Che giovedì sarebbe senza Mangia con me? Allora, care amiche, cari amici, accomodatevi, ma stringetevi un po' perché dobbiamo fare posto a un nuovo amico. Ciao, sono Marco, ho 34, faccio 35 anni e sono della Basilicata, vivo in Emilia Romagna, a Bologna, e faccio come lavoro il consulente, quindi spesso viaggio. Ad esempio a me piace la strada col verde bruciato. Se fossi un piatto, sarei un piatto di spaghetti con i fagiolini, ma quelli lunghi lunghi lunghi lunghi che si confondono con gli spaghetti, una varietà di fagiolini proprio particolare, tant'è che un mio amico quando ha mangiato il piatto ha detto: ma che strana pasta questa pasta verde. E sopra ci sono un sughetto di pomodori e il cacio. È un piatto tipico della terra della mia ragazza, è un piatto pugliese. Se fossi uno sport, sicuramente lo sci, uno sport all'aria aperta, pieno di vita, energico, rilassante. E se fossi una canzone, sarei A me piace il sud di Rino Gaetano. Il mio tallone d'Achille è la stanchezza a fine serata, soprattutto quando dormo un po' meno. Potrebbe essere colpa di una colazione che, anche se abbondante, a volte è ripetitiva? Potrebbero mancare le proteine per la fretta? Allora, l'obiettivo per il quale vi ho chiamato è perché siete una trasmissione che mi piace. Il secondo, l'obiettivo, quello mio personale, è quello di voler acquistare più energia durante il giorno. Allora, Nicoletta, quindi sono pronto. Dottor Ongaro e il professor Tirelli, con la collaborazione dello chef Polato, che aspetto a casa mia per prepararmi le ricette, sono nelle vostre mani. Marco, eccoci, ci hai chiamato e noi siamo qui. Intanto benvenuto. Buongiorno. E benvenuto anche al dottor Filippo Ongaro, che è in linea. Buongiorno a tutti, buongiorno Marco, Nicoletta. Marco, oltre ai nostri esperti, hai già anche dei fan che tifano per te. In linea abbiamo Loredana. Ciao Loredana. Buongiorno a tutti. Alla sua seconda settimana, fa anche rima. Sì, buongiorno. Volevo dire a Marco, che si aggiunge a questi impavidi fans di Essere Benessere, lo saluto ricordandogli che con Mangia con me a colazione avrei un giro vita alla perfezione. Magnifico Loredana, oggi siamo di rima, ma abbiamo anche Giulio, il nostro genovese. Giulio. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. Come sta andando Giulio? Sta andando. Diciamo che questa settimana è stata più in fase... tranquilla, perché avevo qualche problemino, però procede. Procede molto bene. Sì, e l'amico rosticcere? L'amico rosticcere mi ha visto l'altra sera un po' preoccupato, perché sono andato da lui e ho preso verdura bollita. Mi ha guardato con due occhioni come per dire basta, ho detto sì, basta. Ormai è finita. Dottor Ongaro. E io sono, ascolto con interesse quello che sta succedendo a questi partecipanti, nel senso che ognuno sta trovando la sua strada alimentare, quella più corretta, e è ovvio anche Nicoletta che ci siano, diciamo, delle fasi in cui tutto funziona bene e delle fasi in cui le cose sono un po' più difficili. È normale che sia così, non stiamo proponendo delle diete a tempo di un mese o di qualche settimana, stiamo cambiando lo stile alimentare delle persone e quindi ovviamente ognuno ha i suoi tempi, i suoi ritmi, le sue difficoltà. Giulio, e tu hai avuto il tempo per pensare a un messaggio di benvenuto, di ricarica per il nostro Marco? Qual è? Marco, benvenuto a questo gioco serio che durerà per tutta la vita, perché per vivere bene bisogna mangiare bene. Grazie Giulio. Marco, sei sostenuto da Loredana e da Giulio, ma anche sicuramente dagli amici che ci seguono su Facebook, e quindi conta su di loro. Loredana, un abbraccio. Giulio, anche a te, a presto. E a voi. Allora, dottor Ongaro, spesso, come succede a Marco, l'ha raccontato nella sua scheda, arriviamo stanchi alla sera, senza energie, come se fossimo in riserva. Per questo noi abbiamo alle 11:17 chiamato proprio Loredana e Giulio per dare un po' di energia, ricaricare il nostro amico Marco. Ma riprendendo l'immagine del serbatoio di benzina a lei tanto caro, è come se affrontassimo un lungo viaggio senza fare il pieno. Sì, è proprio così. Diciamo che abbiamo due ordini di problemi. Il primo può essere quello della qualità della benzina che introduciamo nel serbatoio, che non è una cosa indifferente, quindi le benzine non sono tutte uguali, i motori non sono tutti uguali, e dunque anche capire qual è la benzina giusta è una delle cose su cui puntiamo molto in questo programma. L'altra cosa è ovviamente la quantità di benzina, cioè se io voglio affrontare un viaggio lungo e faccio sempre quel tanto di benzina che mi basta per uscire appena dalla riserva, dovrò costantemente fermarmi per fare rifornimento e non sarò mai, diciamo, nelle condizioni migliori per affrontare un viaggio a lungo termine come può essere quello di una giornata. E quindi direi che bisogna lavorare sui due concetti, la qualità della benzina, la tipologia della benzina, la quantità della benzina in modo tale da non tornare in riserva costantemente, e anche direi la tempistica dei rifornimenti, anche perché direi che qui viene fuori anche un po' la parola chiave, Nicoletta, che secondo me potrebbe proprio essere rifornimento per oggi. Sì. Anche perché i rifornimenti non sono tutti uguali, no? Tu mi insegni un motto che io non conoscevo, che il mattino all'oro in bocca. Veramente non lo conosceva, no, dottor Ongaro? Non lo conoscevo, mi ha sorpreso. E dunque diciamo che i rifornimenti non sono tutti uguali, e in particolare devo dire che quello della mattina è molto speciale rispetto ai rifornimenti, agli altri rifornimenti che possiamo fare durante la giornata. Allora, il mattino all'oro in bocca, il dottor Ongaro non conosceva questo detto, ma conferma l'importanza, come abbiamo suggerito tante volte, della prima colazione, che diventa un po' il tema della nostra puntata. 800 24 00 24, potete seguirci su Facebook e su Twitter. Perché la prima colazione? Perché Marco per primo sospetta che una delle cause della sua stanchezza sia una colazione non adeguata. Questo potrebbe essere, ma prima di metterla sul banco degli imputati, Marco, raccontaci che cosa mangi, con chi mangi e quanto tempo dedichi a questo mini pasto della giornata, che risulta essere fondamentale per il nostro benessere e per l'energia che mettiamo nella giornata che dobbiamo affrontare. Marco. Ok. Pronto. Che mangi? Prima cosa, coimputato c'è anche il fatto che spesso dormo meno di 7 ore. Il coimputato. Poi veniamo all'imputato principale. Dai. E per la colazione perdo effettivamente non molto tempo, 5-10 minuti. Sì. E cerco di mangiare comunque abbondantemente. E mangio sempre yogurt e cereali. Oppure una fantastica ricetta che ho imparato da un mio amico greco, che è yogurt greco, miele e noci. Sì. Poi fette biscottate con burro e marmellata. Ale? E poi ma ride, diciamo, anche che... poi? E poi diciamo che chiudo con un caffè. Chiudi con un caffè. Dottor Ongaro? Ma ha detto alcune cose interessanti, direi, Marco, direi la prima è quella del sonno, non è da trascurare. Adesso 7 ore non, diciamo, sono il limite. Sono un limite minimo, non è pochissimo, però se andiamo molto sotto le 7 ore questo diventa un problema, perché nel sonno c'è una certa tipologia di situazione neuroendocrina che riguarda i nostri ormoni, che favorisce un metabolismo corretto. Quindi dormire meno, contrariamente a quello che si può pensare, non è che ti rende più reattivo, più energico e ti fa perdere peso, ma quasi il contrario, ti fa acquistare peso e ti fa metabolizzare chi peggio. Chi non dorme prende chi. È abbastanza, ma vede, oggi così. Sono così, il mattino all'oro in così. Bocca. L'altra cosa poi, Nicoletta, è i 10 minuti sono oggettivamente un po' pochi per fare colazione, quindi se si mangia poi in abbondanza in 10 minuti vuol dire una sorta di corsa ad ostacoli anche dal punto di vista metabolico, in cui si mastica poco, eccetera. Come composizione della colazione, direi il punto forse principale è, come aveva già sottolineato Marco, forse un po' poche proteine e un po' il carico glicemico eccessivo. Cosa vuol dire? Sempre la tendenza ad avere un pochino troppi zuccheri. E questa tendenza, di cui abbiamo parlato molto spesso, agisce in maniera non positiva sulla glicemia e quindi ci dà questa sferzata di energia iniziale che però poi viene compensata da un calo di energia a distanza di un paio d'ore. Raccontateci la vostra prima colazione all'800 24 00 24. Leggeremo anche le colazioni, le vostre colazioni che ci avete scritto sulla nostra pagina Facebook, e le commenteremo con il dottor Ungaro. Dunque questo qui è entrato dentro il bar, no? Mi ha detto: buongiorno barista. Dico: buongiorno signore, desidera? Cioè, guardi il barista, fa lui, no? Dice: io vorrei un cappuccino e una brioche. Beh, mi sembra tutto regolare. Sì, no, sì, un entro in un bar, chiedo un cappuccino e una brioche. Brioche, cappuccino. Aldo! Aldo! Allora! Aldo! Allora che c'è? Allora abbiamo detto alle 8, sono le 8 e 7. E c'è bisogno di gridare così, qui la gente mi conosce. Dai, sbrigati, scendi che dobbiamo anche ritirare il pacco, dai! Vabbè, finisco di mangiare la peperonata e scendo. Peperonata, alle 8 del mattino. Mezzogiorno, topi morti. Per voi il risveglio è dolce o salato? Secondo una ricerca che ha coinvolto 18.000 persone che sono state monitorate per 25 anni, non è poco, i desideri culinari, le voglie, le preferenze sono segnali importanti che svelano bisogni del nostro organismo e tratti della nostra personalità. Vogliamo saperne di più? Per questo ho invitato la dottoressa Maria Giovanna Luini, scrittore, medico e comunicatore scientifico all'Istituto Europeo di Oncologia di Milano. Buongiorno, dottoressa. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. Dottoressa, che cosa ha mangiato lei a colazione? Con chi e quanto tempo ci ha messo? Dia il buon esempio. Se volete un buon esempio è meglio non chiedere. Comunque ho mangiato pane integrale e ho bevuto una spremuta di arancia rossa. E fin qui ci siamo. Il problema è che ci ho messo 5 minuti e quindi forse non va tanto bene, perché mi alzo molto presto, devo venire in istituto, venire a lavorare, mio marito deve andare in sala operatoria, quindi il tempo siete che ho siete tutti è di poco. Corsa, la, sì. Fretta è la fretta e aggiungerei anche un po' la pigrizia, sì, sono i due nemici delle buone colazioni. Ma a proposito di gusti e di preferenze, sin dal mattino, che cosa ci racconta la ricerca? Ma è molto interessante, perché questa ricerca è andata a vedere che cosa influenzi realmente le nostre scelte alimentari. E allora, è vero che esiste una dimensione fisica, noi abbiamo ormoni che decidono o ci fanno decidere per un alimento dolce, un alimento salato oppure per quel tipo specifico di alimento, un esempio classico è il cioccolato. Però esiste anche una dimensione che, se volete, è più di personalità. Un esempio interessante: chi ha fame di salato e dolce nello stesso momento, probabilmente ha bisogno di glucosio, cioè di zucchero e di sodio per funzionare correttamente, ma ha anche un tipo di personalità particolare che tende a essere solitaria, introversa, quindi un po' ritrosa, ma anche geniale e creativa. Quindi le persone lunatiche, che di solito sono creative, però un po' simpatiche, un po' antipatiche, un po' estroverse e un po' no, di solito hanno una fame simultanea di dolce e di salato. Quindi ciò che noi scegliamo di mangiare non è solo frutto del nostro bilancio ormonale, ma anche frutto di ciò che siamo dal punto di vista della personalità. Quindi svelateci i vostri gusti, salato o dolce, sin dal mattino, e noi cercheremo di capire qualche cosa di più di voi. E quindi, dottoressa Luini, siate liberi. Prendo a prestito il titolo del libro che lei ha scritto col professor Veronesi, perché la morale un po' di questa ricerca, dottoressa Luini? Sì, è che siamo liberi di scegliere ciò che mangiamo, però dobbiamo essere consapevoli che le nostre scelte derivano anche da bisogni del corpo e che la scelta alimentare è un dovere di salute nei nostri confronti. Dottoressa Luini, grazie per essere stata con noi. Mi raccomando, un pochino più di tempo alla colazione. Buona giornata. Grazie anche a voi, buongiorno. Dottor Ongaro, allora partiamo proprio dalla colazione per rimettere a posto il nostro stile alimentare, come sempre al tema della puntata che è dedicato il nostro quizzettone. Sì, l'abbiamo detto tante volte, Nicoletta, che la colazione è un pasto fondamentale. Forse è arrivato il momento anche di capire bene il perché. Allora proponiamo un quiz che ci porta alla soluzione di questo dubbio: perché la colazione è un pasto fondamentale, perché proveniamo dal digiuno notturno e il corpo è nelle condizioni ideali per assimilare i nutrienti, perché al mattino si bruciano più calorie o perché possiamo saltare così il pranzo. Marco, sono le tre opzioni. Marco, secondo te? Sì, secondo me è indispensabile la colazione. Ma tu che cosa risponderesti? Poi vediamo che cosa rispondono i nostri ascoltatori a casa, perché mettiamo, abbiniamo la guida al benessere. Marco, quale delle tre? Perché la colazione è un pasto fondamentale? Perché proveniamo dal digiuno notturno. Esatto, siamo stati digiuni 9 ore. Mm. Perché al mattino si bruciano più calorie o perché così possiamo saltare il pranzo? Perché proveniamo dal digiuno notturno. Questa è la risposta di Marco, ma aspetto le vostre all'800240024. Uberto, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Ma benvenuto. Cosa ha mangiato a colazione? Grazie. Allora, a colazione... Mi sentite al ritorno voi, no? No, sentite bene? No, perché noi abbiamo io. Matteo Comes in regia e siamo assolutamente tranquilli, il suono benissimo. È perfetto. Allora, io a colazione ho mangiato 2 banane, mezzo vasetto di yogurt, quello di soia, vasetto quello però più grosso, non quello sì, vasettone, vasettone di yogurt, metà. Mm. Poi ho preso 4 noci e 4 mandorle. Mm. E ho diminuito perché mio figlio si è svegliato tardi, ho messo solo 6 biscotti che però mi hanno detto di eliminare. Però io a mezzogiorno affronto un allenamento intenso in piscina, allenamento, non un voglio dire, mi alleno per conto mio, mi alleno con i master. Ah, quindi lei è un nuotatore, no, vero? Diciamo che dica nuoto la verità. Con i nuotatori veri, io non lo sono. Però, va bene, e quindi quando ecco, ha bisogno di un'energia supplementare? Ecco, se è sufficiente, perché io a un certo punto, dopo alcuni allenamenti sono particolarmente intensi perché hanno degli scatti che io riesco a tenere bene per 3/4, poi a un certo punto sarà la colpa delle noci, dei biscotti, dottor Ongaro. Molti dei nostri ascoltatori si allenano, magari non a livello, non come Uberto, ma approfittano della pausa pranzo per andare in palestra, per allenarsi. Nicoletta, come abbiamo detto anche in una puntata recente, lì la questione è che cosa faccio a metà mattina, cioè bisogna fare rifornimento, come abbiamo detto prima, cioè la colazione fatta al mattino presto e l'allenamento fatto a pranzo passano un numero di ore sufficienti per perdere un po' i benefici della colazione, quindi continuiamo sicuramente a farla, se possiamo fare a meno dei biscotti facciamolo, ma soprattutto cerchiamo di inserire dentro anche uno snack, uno spuntino a metà mattina che sia poi utile per affrontare l'allenamento col massimo di energia. Quindi Uberto deve fare un rabbocco. Allora ad Uberto noi consigliamo di andare sulle pagine di Mangia con me, perché ci sono degli spuntini che Stefano Polato ha preparato naturalmente con la supervisione del dottor Ongaro, che possono fare proprio al caso di Uberto e di chi a metà mattina deve fare un rifornimento. Who's afraid of the big bad wolf? Big bad wolf? Big bad wolf? Who's afraid of the big bad wolf? Tra la la la la. Long ago there were 3 pigs, little handsome, piggy wigs. For the big bad, very big, very bad wolf, they did not give 3 figs. La canzone dei 3 porcellini cantata dai 5 alti e bassi. E in linea abbiamo Andrea. Ciao Andrea. Eccomi, ciao Nicoletta, un saluto a tutti gli ascoltatori. Tra l'altro vi state spostando perché avete un concerto. Sì. Oggi siamo a Pescara questa sera. Mi raccomando, seguitemi, Gli Alti e Bassi, che sono il mio gruppo preferito. Andrea, perché questa canzone per Marco? Dedichiamo a Marco la canzone dei Tre Porcellini. Chi ha paura del lupo cattivo? Il lupo cattivo, invitiamo Marco a trovare l'energia giusta per scappare da questo lupo cattivo e soprattutto a seguire i consigli degli esperti di Mangia con me per costruire la casa giusta, la casa solida, non quella fatta di paglia o quella fatta di legno, ma quella di mattoni. Non basta per esempio fare le sue passeggiate nel bosco, fare un'attività sportiva costante, è importante seguire tutti quanti i consigli, tutte quante i suggerimenti che arrivano dai nostri esperti. Che sono un po' i mattoncini di questa sua nuova casa, che è il suo nuovo stile alimentare. Esatto, esattamente. Ho detto bene. Marco, tu quando hai sentito i Tre Porcellini hai detto, ma questi Alti e Bassi come osano? Perché il porcello a me? Anche se la spiegazione è stata molto carina, quella di dopo, c'è da dire che ho pensato che fossi uno dei Tre Porcellini. Vedi? Ecco, è lì che cade l'asino. Marco, quindi ti è piaciuta la scelta di Andrea? Sì, molto bene, carino, bene, molto ma lo stiamo anche coccolando. Andrea, ti lascio. Buon grazie, concerto. Saluto a tutti. Grazie, dacci tue notizie. Presto. Abbiamo Francesco dalla provincia di Treviso e Dario da Como. Buongiorno, Francesco. Buongiorno Nicoletta e auguri per la trasmissione. Grazie, ce n'è sempre bisogno, la ringrazio molto. Niente, io parlo come la colazione è molto semplice, non so se va bene. Bevo un bicchiere al mattino subito appena alzato di acqua tiepida. Sì. Poi prendo due yogurt di capra e poi due fette biscottate con della marmellata senza zucchero di lamponi o mirtilli. Perché di capra, dottor? Ha finito lì, Francesco? Oh. No, poi faccio solitamente 3-4 volte alla settimana 10 km a piedi, per cui un'ora, e poi bevo 1,5 litri di acqua tutti i giorni. Al mattino, sì. Non so, non mi sento stanco dopo quando ho finito, per cui non so se va bene. Dottor Ongaro, dalla provincia di Treviso, quindi vicino a lei, Francesco. Vicino a me. Beh, allora direi non è male come colazione, si possono fare dei piccoli cambiamenti, le fette biscottate per esempio scegliere quelle integrali e la marmellata ovviamente la prende senza zucchero, si potrebbe anche aggiungere non soltanto la marmellata con i frutti di bosco ma i veri frutti di bosco per esempio. Quindi, costano un botto però. Ma insomma, non è. Io credo sempre che ci possano essere delle soluzioni alla portata di tutti. E poi, se uno mangia, non so, il kiwi, una mela, anche, una nurca, anche, che sono buonissime. Ma anche, assolutamente. Diciamo che i frutti di bosco hanno questo grande contenuto di antiossidanti, lo so. Però ce ne sono anche nelle altre. Se li prendiamo surgelati? Ma io li uso anche surgelati, non credo che sia un grandissimo problema questo, francamente. Senta, perché lo yogurt di capra? Ma può essere che per alcune persone sia più digeribile di uno yogurt con latte vaccino e quindi può essere un'opzione, una scelta. Tra l'altro le capre, diciamo da un punto di vista dell'allevamento, sono tutti animali che pascolano, quindi diciamo che può essere anche una scelta più genuina volendo. Allora, abbiamo Dario da Como, ma prima di dargli la parola volevo rassicurare gli amici di Mangia con me che hanno scritto la loro colazione su Facebook. Sono tanti e non riesco a dare la precedenza a una soluzione piuttosto che a un'altra. Allora, il dottor Ongaro nel pomeriggio leggerà le vostre colazioni e aggiusterà, se è il caso, il tiro, suggerendovi che cosa inserire, che cosa sostituire o che cosa togliere. Vero, dottor Ongaro? Sì, esatto. Penso che sia una buona opportunità di usare Facebook anche a questo scopo e quindi di vedere che tipo di proposte hanno fatto gli ascoltatori e chi segue i siti di Radio 24 Essere Benessere e di cercare di correggere dove ce ne fosse bisogno con qualche consiglio in più. Abbiamo Dario allora. Dario, buongiorno. 800 24 00 24 per noi la sua colazione. Sì, buongiorno Nicoletta e dottor Ongaro. Grazie per questa opportunità. Allora, la mia colazione dura mezz'ora praticamente, ci svegliamo molto presto con mia moglie e dedichiamo uno spazio completamente appunto alla colazione perché è uno dei pochi momenti in cui possiamo almeno stare insieme. Ci alziamo molto presto alle 6:15 e quindi fino alle 7:15 siamo seduti a tavola. Sì, ve la prendete comoda insomma. Sì. Bravi. E poi ci piace fare colazione, mia moglie prepara molto spesso, lo consigliamo proprio in casa, pane nero ai 7 cereali. E ci piace proprio poi la mattina fare colazione, diciamo nella settimana facciamo due tipi di colazione, una prevalentemente con appunto tè e pane nero ai 7 cereali, pomodoro con olio extravergine di oliva e origano e magari un frutto. E mentre altri giorni magari della settimana ci piace anche prendere del latte con dei forlini secchi o fette biscottate integrali. Quindi Dario, mi scusi Dario, lei inserisce una parola che è fondamentale, la varietà, una parola che piace molto al nostro Stefano Polato che è in linea. Stefano, ciao. Buongiorno, buongiorno a tutti, ciao Nicoletta, buongiorno. La varietà, nei tuoi menù infatti vari molto, gli ingredienti, i metodi di cottura, gli abbinamenti, sì, anche a colazione. Mi ispiro molto alla stagionalità, mi ripeto probabilmente, però vario soprattutto con i prodotti di stagione, con gli prodotti che la natura ci offre. Abbiamo detto, Stefano, che spesso si trascura la prima colazione per pigrizia, per mancanza di tempo, perché non abbiamo fame, ma tu ci aiuterai a trovare delle soluzioni. Adesso noi andiamo a sentire che cosa sta succedendo sulle strade e sulle autostrade. 800 24 00 24. Vi ricordo anche il quizzettone, dottor Ongaro, lo ripeta lei rapidamente. Perché? Allora, perché la colazione è un pasto fondamentale? Perché proveniamo dal digiuno notturno e il corpo è nelle condizioni ideali per assimilare i nutrienti? Oppure perché al mattino si bruciano più calorie? O perché così possiamo saltare il pranzo? Un ascoltatore mi ha scritto: per me valgono tutti e tre ugualmente, perché mangiando salto il pranzo e risparmio calorie, e anche perché al mattino risveglio subito il mio organismo con una sferzata di energia. Magari sono valide tutte e tre, che il dottor Ongar ci abbia fatto un trabocchetto. Pigrizia, mancanza di tempo, mancanza di fame. Stefano, sì, la colazione ormai come predico e predichiamo sin dall'inizio di questo programma, dobbiamo riuscire ad interpretare la cucina in un modo nuovo, ossia vederla e sentirla come un momento di aggregazione, di divertimento, soprattutto di relax. Quindi dedicare qualche ora per divertirsi in cucina, magari con la famiglia, preparando dei biscotti all'olio extravergine di oliva, in divertimento, in relax. Ecco, quindi scusami Stefano, e trovarli pronti il giorno successivo. Stefano, quindi, dato che tanti ascoltatori mi stanno scrivendo: mi piacciono i biscotti e voi non me li lasciate mangiare. Errore, perché noi abbiamo i biscotti preparati da Stefano Polato all'olio extravergine di oliva, che potete preparare insieme ai vostri bambini se avete bambini, se no li preparate da soli e li mettete in un barattolo e al mattino il dottor Ongaro ce li lascia mangiare, vero dottore? Sapevo che mi chiedevi questo. No, sì, certo, li lasciamo mangiare, però ricordiamo anche agli ascoltatori, sì, ci sono delle cose che fanno meglio di altre, no? Quindi dove possiamo scegliere la versione che fa meglio, scegliamo quella che fa meglio. Poi qualche piccola rinuncia ci si abitua facilmente. Se poi seguiamo dei consigli come quelli di Stefano, abbiamo la possibilità di unire le due cose. Non è sempre però possibile. Non è sempre possibile. Però Stefano, hai visto? Qualche piccola rinuncia bisogna saperla fare. In Stefano, questo caso i biscotti di Stefano vanno benissimo. Vero? Hai visto Stefano che ha digerito anche i biscotti, il dottor Ongaro? Ecco. Sì. Per la mancanza di tempo, Stefano, allora, che facciamo? Per la mancanza di tempo vi suggerisco una bevanda di riso con cereali integrali soffiati, qualche frutto secco e una dadolata di mele, che vi darà uno sprint inatteso in solamente 2-3 minuti di preparazione. Sottolineo di preparazione perché, come dicevamo prima, prendiamola proprio con relax. È un momento di aggregazione anche la colazione, quindi stiamo con la nostra famiglia, discutiamo dei problemi che avremo di fronte per tutta la giornata e partiremo con uno sprint inatteso. Quindi. Allora, vi faccio notare che ha messo cereali integrali soffiati. Passiamo alla al terzo problema che spesso ci allontana dalla colazione, la mancanza di fame. Ci sono persone che si alzano e proprio non hanno fame, allora che si fa? Se al mattino ci alziamo senza fame non dobbiamo fare altro che stuzzicarla, quindi i muffin al cacao che troviamo, muffin al cacao e farina di nocciole che troviamo nel blog di Mangia con me, sicuramente visti al mattino sopra il tavolo della cucina, sicuramente stuzzicheranno l'appetito. Ricordo che dopo la prima puntata di questa nuova edizione, Paola sul blog, la prima partecipante, mi chiese, sono buonissimi, li ho provati, ma posso mangiarne due? Io mi sono permesso di rispondere di sì, ma perché, certo, insomma, partire con una carica giusta al mattino e anche con una bella soddisfazione dal punto di vista alimentare, è sicuramente, vuol dire sicuramente partire con una marcia in più. E infatti Paola è in linea con noi, guarda un po' Stefano, che sorpresa. Paola, ciao. Ciao a tutti, buongiorno. Ti sei ispirata ai menù di Stefano, hai seguito i suggerimenti di Filippo Ongaro, ti sei mossa col professor Tirelli, hai mosso il, così un po', hai ripreso il ritmo con la musica degli Alti e Bassi. Insomma, Paola, come stai? Allora, sta andando tutto a gonfie vele, sono sincera. E per colazione io preferisco la mattina, perché entro in ufficio molto presto, alle 7:30, preferisco più prendere i muesli con quelli integrali, i fiocchi d'avena in particolare, con la bevanda di riso, con latte di soia, e mettere della frutta secca dentro. Il sabato e la domenica invece preferisco cucinare, che so, ho provato la crostata, i muffin, e quindi così. Però la dieta va, sta andando a gonfie vele, mi sento sazia, mi sento piena di energia, sono contenta. Brava Paola. E tra l'altro, Paola, ricordo ai nostri ascoltatori, io cerco sempre un po' di animare la tifoseria dei nostri partecipanti, Paola è arrivata alla quarta settimana, che significa che dopo aver ascoltato e seguito i consigli dei nostri esperti, per le prossime quattro settimane, iniziando da questa, si mette alla prova. E allora che farà Paola? Metterà sul sito i suoi menu, il dottor Ongaro e Stefano Polato daranno dei suggerimenti, naturalmente ci racconterà anche delle sue, dei suoi allenamenti, in modo che il professor Tirelli, che non abbiamo sentito oggi perché è in volo, è tra le nuvole, ma atterrerà per la prossima puntata, in modo che il professor Tirelli possa magari suggerirle altri punti magici. Paola, ti ringrazio, ti abbraccio, sono grazie fiera di te. Grazie a te. Grazie mille. E noi abbiamo, prima di dare la parola a voi per il nostro quizzettone, abbiamo il nostro professor Andrea Segreca in linea. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Professore, come stiamo? Stiamo bene. Allora, oggi mi pare si parlava di prima colazione. Sì? Se beviamo caffè o tè potremmo effettivamente raggiungere questo obiettivo che ci siamo prefissi di ridurre il peso del bidone della spazzatura, e in questo ci aiuta il ricettario di cucinare senza sprechi. E Lorenza Pliteri, che l'ha curato, ci dice per esempio che con i fondi di caffè, invece di buttarli via, possiamo arricchire il terreno e renderlo più soffice, perché sono ricchi di sostanze nutritive, e se qualcuno dei funghi potrebbe anche coltivarle. Però poi possiamo fare anche tante altre cose con questo avanzo della piera, per esempio per le piante, se noi lo diluiamo l'equivalente di una tazzina con tre tazzine d'acqua, sì, si possono annaffiare le piante. Poi però ci sono anche altri usi, perché si possono eliminare o comunque abbattere, come si dice, i cattivi odori. Versiamo per esempio i fondi di caffè in una tazzina, li, sì, mettiamo in frigorifero, e questo il cattivo odore va via. E la, poi, nostra pattumiera diventa sempre più magretta. E poi lo possiamo usare anche il fondo di caffè come sgrassante, si possono strofinare le pareti del forno quando è ancora tiepido, oppure anche un esfoliante, mi dice sempre Lorenza, un esfoliante naturale per la pelle. Ma anche le bustine di, sì, tè possiamo usare, le tisane, la camomilla magari per la prima colazione ma possiamo usare tutti questi. Professor Segre, mi stanno partendo i segni perché dobbiamo quasi chiudere. Io vi ricordo che il professor Segre, che è presidente di Last Minute Market e autore di Cucinare senza sprechi, torna il prossimo giovedì. Potete naturalmente anche leggere il suo libro Cucinare senza sprechi. Abbiamo 10 secondi per Marco. Marco? Sono. Velocissimo. Qual è? Turno. Il riposo, perché veniamo dal digiuno notturno. Dottor Ongaro. Sì, è giusto, è assolutamente giusto. Bravo. È il momento migliore per mangiare proprio il mattino. Bravi, mangia con me, finisce qui. Saluti a tutti, ci sentiamo domani.